Letture di Radio 24. Il dominio invisibile e spietato della 'Ndrangheta del Nord. Questo è quello che racconta Giuseppe Catozzella, giovane scrittore e giornalista milanese, nel suo romanzo non-fiction Alveare. Ne ascoltiamo di seguito un passaggio in cui l'autore racconta come le 'ndrine tengono sotto scacco un bar di Milano. Poi il Rino mi ha detto che non ce la faceva più. Non ce la faccio più. Mi sono entrati dentro. È il suo modo per descrivere il pizzo che gli chiedono tutte le settimane. Non è che vogliano soldi, una parte degli incassi, perché Rino con quello che guadagna a malapena ci mangia, e loro lo sanno. L'Ndrangheta gli impone gli ordini, le forniture. Mi sono entrati dentro. Il latte lo deve prendere da loro, il caffè lo deve prendere da loro, anche i croissant, gli amari, le patatine, il cacao per i cappuccini. Tutta roba di buona qualità, ma che costa più cara del prezzo di mercato. Le brioche fresche che ha comprato per una vita da Marinoni, la pasticceria industriale in Viale Abruzzi, ora le paga 10 centesimi in più l'una, 60 invece che 50. E poi la macchinetta videopoker. Rino non la voleva, Mara neanche. Avevano sempre detto che il bar si sarebbe riempito di gentaglia. Erano contrari. Eppure, il videopoker è arrivato. Quelli che te lo installano guadagnano il 6% sull'incasso. La macchinetta fa più o meno 1000 euro al giorno, grazie a tutti i perditempo della zona. Sono 60 euro al giorno per il clan che ha in mano la bicocca. Piazzale Greco, Melchiorre Gioia, Viale Zara, fino a Loreto. Praticamente dalla fine di Via Imbonati, da Via Valtellina, fino alla stazione centrale. 60 euro al giorno in un mese fa 1800 euro. Per 1000 macchinette fa 1.800.000 euro al mese. 20 milioni l'anno soltanto con il videopoker. Ti entrano dentro e tu devi prendere la macchinetta, devi comprare pure il latte da loro. Anche se tuo padre e tuo nonno facevano i lattai molto prima che tu cominciassi a vendere caffè. Non è neanche tanto colpa loro, mi dice il Rino. È che se no io chiudo. Digrigna i denti e guarda il soffitto, le pale impolverate del ventilatore. Con i caffè non ci campa più nessuno. Io dovrei chiudere. Loro mi fanno lavorare. Se dico qualcosa mi minacciano di venire a prendersi i soldi, quelli che mi hanno prestato. Invece così sono amici, non mi chiedono niente. Per un attimo si ferma, si guarda intorno, lancia un'occhiata fuori a Tiziana. L'altra estate volevo far vedere i mondiali qui in latteria, ti ricordi? Poi non l'ho fatto perché solo di permessi erano 200 euro al giorno, tra SIAE e beghe varie. Ecco, loro mi hanno detto che i prossimi li trasmettiamo. Così io non mi perdo neanche una partita. Si porta il pollice in bocca, comincia a tirare via il cerotto con i denti posticci, senza smettere di parlare, emette un suono strascicato, nasale. Ma io non ci resisto mica ancora 4 anni in questo modo. Mi strappo il cuore prima. Quelli là entrano e piano piano ti fottono tutto. Una volta che sono dentro, un piede dopo l'altro. Adesso indica con gli occhi Tiziana che sta fumando l'ennesima sigaretta dietro la porta chiusa. Subentrano nel locale. Ti prestano i soldi per pagare le forniture, se non ce li hai. Appena sanno che sei in difficoltà, ti entrano dentro per farti marcire poco a poco. Hanno a libro paga alcuni funzionari di banca. Vengono informati su chi è in difficoltà. Arrivano e ti conciano ancora di più per le feste. Se poi fai l'errore di accettare una volta i soldi da loro, sei rovinato per sempre. Puoi già cominciare a fare il conto alla rovescia. Ti prendono per sfinimento. Tanto hanno tutto il tempo del mondo e anche tutti i soldi del mondo. Ogni giorno una goccia, finché non ti bucano. Ti prendono il locale e lo trasformano. Riesce a concludere il lavoro con il cerotto sul pollice destro. Con uno scatto si porta alla bocca la mano sinistra. Poi mi guarda da sotto in su e continua. Dove sono finiti i bar di Milano? Ma non vedi che aprono continuamente posti nuovi, anche in questa zona? Bar che fanno gli aperitivi, ristoranti. Non vedi che ogni giorno un cinese tira su la serranda di un negozio nuovo? Chi glieli dà i soldi ai cinesi, secondo te? La mafia cinese? Sì. Magari con i calabresi che restano a guardare. Sono loro che usano i cinesi per aprire i bar. Piano piano questa gente si prende tutto. Io di solito lo stavo a sentire senza parlare molto. Finivo il mio cappuccino, Lo ascoltavo per un po' e poi uscivo. Ormai lo capivo subito. I giorni che aveva lo sguardo fisso erano quelli malati, quelli in cui si tagliava. E poi aveva voglia di sfogarsi. Una mattina, dopo aver risposto no, come sempre, alla proposta del cacao nel cappuccio, gli ho invece fatto una domanda, mentre addentavo un croissant. In quel periodo avevo il turno di notte e quando mi capita mi piace godere delle mattinate, del privilegio degli operai stagionali insonni, uno dei pochissimi. Osservare chi è di fretta. Quella mattina avevo il tempo dilatato per una chiacchierata. «Perché non vai dai carabinieri, Rino, invece di stare qui a prepararti a morire?» «Così poi è la volta buona che davvero vengono e spaccano qualunque cosa», è stata la risposta di Mara, che non aveva dato il minimo cenno di aver ascoltato. Quando mi sono girato verso di lei, aveva già ripreso la sua litania silenziosa. Non aveva neanche alzato gli occhi dal rosario. «Noi non siamo gente così. Non siamo abituati, soprattutto quelli di una certa età», ha aggiunto Rino. «Noi, piccoli imprenditori, siamo abituati a fare da soli, anche a marcire, se è il caso. E te me lo chiedi mai lo scontrino? Tutti noi qua siamo sempre stati abituati a fare il nero, dal primo all'ultimo. Chiedi a chiunque altro nella via. Per campare si fa il nero, ma mica da ieri. I carabinieri sono sempre stati una categoria che ci ha fatto un po' paura. Altro che. Se vengono sono rogne, tra loro e la guardia di finanza». Poi Mara ha fatto a Rino il segno di starsene zitto, che Tiziana aveva schiacciato il mozzicone della sigaretta sotto la scarpa e stava rientrando. Avete ascoltato un estratto del libro Alveare di Giuseppe Catozzella, Rizzoli Editore, 243 pagine, 17,50 euro.